Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Oggi forzerò come non mai feci prima le mie nature e parlerò di calcio. So che molti crederanno che io sia impazzito, chi mi conosce dice ma evidentemente ha qualche problema serio, poverino. Viene da pensare perché nei primi 4 mesi del 2012 nel circuito legale sportivo sono stati puntati dagli italiani 1 miliardo e 270 milioni di euro. Una bella cifretta in questo periodo in cui si raschiano soldi ovunque, c'è un terremoto, si aumenta la benzina, perché evidentemente soldi non ce ne stanno. Secondo alcune stime, in Italia il giro di affari sul gioco illegale, quindi clandestino contro la legge, vale 10 miliardi di euro e coinvolge 40 clan tra mafia, camorra e 'ndrangheta. Quindi questa cosa favolosa, che comunque sia porta tanti bei soldini allo Stato, porta tanti anche bei soldini a 40 clan fra mafia, camorra e 'ndrangheta. Il 72% degli italiani si dichiara interessato al calcio, quindi io sono nel restante piccola porzione di italiani che non ha mai visto una partita di calcio in vita sua, ma non lo dico per snobismo, lo dico perché è così. A casa mia nessuno parlava di calcio, da piccolo non mi regalavano gli scarpini, se mi regalavano il pallone di cuoio ero quello che portava il pallone e me lo mettevano tutti a porta perché era incapace, imbranato, era quello che poi riprendeva il pallone e se lo portava via quando vedeva che gli altri giocavano e lui se ne stava lì a guardare. 32 milioni di italiani seguono la nazionale, 28 milioni seguono la Serie A. Questo mi fa capire che per qualcosa dovrei sentirmi con un handicap forte rispetto alla maggior parte degli italiani. Mi mancano molti argomenti, molte volte glisso, molte volte faccio finta di nulla, dico sì certo, mi chiedono sempre i tassisti, anche ieri mi ha caricato un tassista Melogo, ma per quale squadra tiene lei? Dico ma che ne so, boh, non sapevo che dire, non avevo la minima idea, avevo altre cose per la testa. Però non si può non parlare oggi di calcio. Mi viene da riflettere perché il più grande e lussurioso passatempo degli italiani, il più formidabile e robusto argomento di conversazione, il collante di tante famiglie, perché abitando sulla direttiva per lo stadio olimpico vedo io passare e ripassare transumanze infinite, ora con la maglietta rosa, ora la maglietta gialla, ora la maglietta blu, io avendo poi la sfortuna di avere la macchina color amaranto con un blocco a sterzo a forma di mazza baseball giallo, ogni tanto le ruote squarciate, non riesco a capire perché, ma c'è un legame probabilmente fra questa mia inconsapevole bandiera alla quale non appartengo e non ho nessuna profonda appartenenza. Viene a pensare perché questo che è il grande divertimento degli italiani e anche il grande affare dello Stato italiano e anche il grande affare dell'antistato italiano, il cosiddetto pil sommerso, quindi ci fanno i soldi i malfattori, sia così palesemente non un gioco, non una vera e pulita attenzione, ma sia qualcosa che assomiglia al wrestling, sia qualcosa di finto, di truccato, di tarocco. Ogni giorno nella mia inconsapevolezza e ignoranza mi sembra di capire che il calcio in realtà è una grande messiscena, è come quei muscolosi e pompati signori con i baffoni biondi e vestiti da supereroi che si affrontano sul ring, si ammazzano di botte ma in realtà non si fanno nulla, perché è finto, perché è fatto, tutti sanno che è un gioco, che è una convenzione, vanno lì, battono le mani, scommettono, entrano in un'altra dimensione. Ma è possibile che gli italiani siano così all'occhi di avere la passione per qualcosa che è finto, che è reale, irreale? Io amo l'irrealtà, io amo la finzione, io amo la bugia, molto più della verità, è molto più fantasiosa, molto più divertente, ma se questo è un argomento così importante, oggi vorrei parlarne con voi, anche perché il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha detto qualcosa che all'inizio mi sembrava una facezza, ma riascoltandolo devo dire che condivido quello che ha detto. Non sto facendo una proposta e men che meno una proposta che viene dal governo, ma è un desiderio che qualche volta io, che pure sono stato molto appassionato di calcio tanti anni fa, quando il calcio era il calcio, un desiderio che qualche volta dentro di me sento. Se per 2 o 3 anni, per caso, non gioverebbe molto alla maturazione di noi cittadini italiani una totale sospensione di questo gioco. Far rabbrividire quando un mondo che dovrebbe essere espressione dei valori più alti, lo sport. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Oggi sei qui in quanto, come tutti gli italiani, come ogni persona da me in giù, mastica di calcio. Anzi, tu vai al baretto del tuo paese pugliese, puoi anche fare l'erudito, quello che ne sa. tu rischi di diventare il personaggio più importante, lo sai, a Roma e dintorni. Sì. Tu, in quanto biografo del grande Zeman, avendo tu fatto un film Zemanlandia, già ti stanno cercando. Come tu conosci Zeman? So, ho visto foto, scene di te in Tonti con Zeman. In Tonti ha giocato assieme a lui in una squadra. Non ho bene capito, non ho cosa. Ma comunque tu, in quanto zemologo, fra un po' tutti ti chiameranno. Ti chiameranno i lussuosissimi esperti di calcio, lo scrivono sulle pagine di Repubblica, tirando Sansonna. La prego, mi metta in contatto con Zeman. Sì, la coincidenza è interessante, perché la riemersione di Zeman, che è sempre stato bella legato... botta di culo per te. Sì, senza... non era previsto nulla, perché l'imprevedibilità della vita, del caso, che invece viene anestetizzata da questi calciatori che vogliono ricondurlo a un prevedibile controllo e quindi alla possibilità di scommetterci. Ma voi che vi parlate, ti ha detto, è vero che viene a fare il... Guarda, non l'abbiamo incalzato, però pare che aleggi la sua presenza su Trigoria, pare, insomma, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Ma tu verrai ancora qui per pochi soldi a parlare? Concederò, insomma, magari potremo ritoccare il contratto, ne parliamo. Ma poi in separata. Sì. Già no. Questa mattina chi guarda sul nostro profilo Facebook vedrà uno sceno filmatino messo su YouTube che rivela la tua natura venale. Comunque andiamo avanti. Comunque, come diceva appunto Pasolini, pluricitato in questo, il calcio era l'ultima rappresentazione sacra, in quanto sacro perché irripetibile, perché imprevedibile, perché davanti a 60 scusa un attimo, vedo un cartello al di là del vetro, leggi il titolo del documentario, ce l'hai sulla scaletta: Zemanlandia di Giuseppe Sansonna, il tifoso, l'arbitro e il calciatore. No, quello è il titolo del film che manderemo in onda dopo. Ah, non è che hai messo Zeman, Pippo Franco e Vitali, allora tutti insieme. Zemanlandia di Giuseppe Sansonna, finisce qua. Che cos'è? Ah, dov'è la scheda? Comunque, in ogni caso, è quello di cui tratteremo oggi. Ma scusa, lo posso rifare da capo? Fai. In studio Giuseppe Sansonna, regista, scrittore, autore di Il ritorno di Zeman, un cofanetto con due DVD più libro sulla carriera sportiva del prossimo allenatore della Roma, Zdeněk Zeman. Scusa, io non so nemmeno come si chiama. È cieco. Zdeněk Zeman, edito da Minimum Fax. Comunque, qual è? Okay. Non ce l'aveva scritto. Sono commosso da questo inserto meraviglioso. In ogni caso, chi vedrà il filmatino su YouTube messo sul profilo Facebook capirà perché. Capirà tutto. Quindi, quello che in realtà è interessante, appunto, è una riemersione di una figura come il boemo, che è sempre stato legato al gioco come bellezza, come divertimento, anche nei suoi lati più puri. Vabbè, tu che ti appassioni calcio, andiamo al sodo. Come gli italiani sono così apparentemente rincoglioniti per un gioco che in realtà ogni giorno viene fuori nei suoi più eccelsi, più sublimi rappresentanti, che è tutta una taroccata? Beh, l'italiano medio ha la memoria. Spiegalo a chi non ne capisce nulla come me. Storica di un criceto, cioè resetta tutto quanto. L'importante è che dopo una settimana non si parli più della sua squadra del cuore e gli eventuali implicati della sua squadra del cuore, e quindi poi rimuove tutto ed è pronto a sventolare il bandierone. Come tutte le donne sono maiali, meno che la moglie e la sorella. Così. Esatto, poi la rimozione. E la mamma. Esatto, soprattutto la mamma, e la rimozione è immediata, però. Quello che sta accadendo adesso, quello di particolare, è che mentre prima, nel primo calcio scommesse, che era negli anni 80, del 1980, quando arrivarono le prime alfette a bordo campo, fecero irruzione negli stadi, che era una novità, si pensava che fosse proprio, era intangibile come il velo della Madonna, nessuno avrebbe mai pensato che ci fosse corruzione al di sotto quel campetto verde dove tutte le speranze, tutte le illusioni si giocavano ogni domenica, e la loro più sublime occasione. Esatto, quelli erano criminali rispettabili, però in che senso? Nel paradosso, perché avevano facce da noir come Ricky Albertosi, che gente a fine carriera che magari cercava di arrotondare. Dei poveri umarelle che provavano, poverini, a razzolare qualcosa in vista della magra pensione. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Lei è un italiano tipico che ama il calcio. Io sono un italiano tipico che ha giocato tanto a calcio. Ah, però ci spieghi. Anzi, mi spieghi a me, che sono l'ultimo degli italiani su queste cose qua. Come mai gli italiani si appassionano tanto per qualcosa che in realtà si è capito che è tutta una truffa, o in gran parte? Beh, perché mi passi il termine, perché alla fine è una religione di Stato il calcio, fin dall'infanzia, no? Dalla parrocchia proprio. Dov'è che giochiamo a calcio per la prima volta? Proprio laddove... Io andavo ai Salesiani che giocavano a pallacanestro, quindi purtroppo... Vabbè, ma c'era anche il campo da racchettoni, c'era il campo da calcio, dove appunto col prete venivamo cresciuti appunto a calcio, la comunione, eccetera. No, io vi chiamavo perché questa sacralità del calcio, a mio avviso, rappresenta un po' il nostro paese, ma quel che mi ha deluso moltissimo del calcio è che nessuno si rende conto che il calcio va assolutamente riformato. E le parole di Monti, che premetto, non è che mi stia particolarmente confacente alle mie idee politiche, però in questo caso le parole di Monti sono sacrosante. Quando io l'avevo letta sulle agenzie di stampa, cioè, ma come si fa a dire gli italiani senza calcio, come togliere la flebo a un malato terminale? Ma risentendolo ha perfettamente ragione, ha totalmente ragione. Non ha detto lo voglio fare, ha detto mi verrebbe la voglia di toglierlo per 3 mesi, come a un bambino che gli dici ti tolgo la bicicletta perché hai preso un brutto voto a scuola. Però è giusto così. Sì. Ma quella, poi c'è dell'altro, vede, la sacralità del calcio è tale per cui mi viene anche difficile dirglielo in questo momento, però mi ha deluso molto il capitano della nostra nazionale l'altro giorno. Allora, adesso entra nei particolari, non posso seguirla. Mi spieghi una cosa, i calciatori sono belli, ricchi, straricchi, vezzeggiati, maneggiano il pelo più di lusso che esista sulla nostra penisola, fanno quello che vogliono, sniffano, fanno feste, s'ammonticchiano, ma perché hanno bisogno anche di razzolare i soldi in più rispetto a quelli che prendono? Perché il calciatore a 13 anni, quello di successo, quello che poi diventa il grande appunto campione pieno di soldi, a 13 anni viene estirpato dalla famiglia e portato nei centri di formazione, nei vivai li chiamano, e da lì mangia solo del calcio, e la morale che vive, la vive all'interno di collegi, di scuole, ma comunque la vive all'interno di uno spogliatoio, e manca, a mio avviso, l'aspetto più rigoroso, quello dell'educazione, quello che bene o male... Sì, ma anche se fosse maleducato e corrotto, ha già tutto dalla vita. È pieno, non sa più, cioè non gli basteranno tutta la vita per consumarsi i soldi che guadagna, perché deve anche prenderne in più e essere corrotto? Questo mi domando, non riesco a capirlo, onestamente. Che ci fa? Ma ci fanno che è un qualche cosa in più, forse è l'avere più successo ancora, e anche la noia, sia chiaro, perché io ritengo che una persona che... Sì, vabbè, ma di narici ce n'ha due, di pisello ce n'ha uno, alla fine cosa ci può fare con tutti questi soldi? 800 24 00 24, andiamo avanti. L'allevamento dei lombrichi è un investimento a lungo termine, io e Sozzi invece abbiamo un affare veloce per l'anno. Che cos'è? Oh, accordo Parigi, siamo dentro io e Sozzi, in Lusso e Palù. Tra l'altra parte sono già d'accordo in sé. Ma che cazzo sta detto? Ora dobbiamo vincere la partita, non siamo in corsa per la UEFA, oh! Tanto già siamo in zona UEFA, domenica scorsa abbiamo vinto e segnato pure tu, non ti ricordi? Sono 10 milioni a testa, Antonio. Più i soldi che ci possiamo scommettere per conto nostro. No, io non ci sto. Poi il mister vi uccide. Ci uccide se non lo facciamo l'accordo. Ci ha fatto puntare 30 milioni suoi personali. Io mi tiro fuori. Poi lo sai, Filippo. Un paio di volte l'ho fatto, ma te l'avevo detto che non ci stavo più. Giuseppe Sansone, entriamo nella storia, visto che dobbiamo fare uno spaccato antropologico della passione italiana per il calcio, nonostante la corruzione, dove siamo? Qui siamo nei territori dell'Uomo in Più di Paolo Sorrentino, che racconta per l'appunto lo scandalo delle calcioscommesse dell'80, quello che coinvolse i giocatori, come dicevo prima, come Ricky Albertosi, come Giordano, che finirono tutti a Regina Coeli. Io intervistai Albertosi una volta e mi raccontò ho mangiato i migliori bucatini della matriciana della mia vita. Sembrano ladri di figurine rispetto a oggi. Sì, sono figure da noir alla Luttrig, no? Infatti Albertosi ha questo naso anche rotto da un calcione di Savoldi, quindi si prestano anche cinematograficamente, mentre quelli di oggi sono un po' dei girini imberbi, insomma, cioè, quel calciatore del Bari, Masiello, che si è comprato, si è venduto, ha fatto un autogol nel derby con il Lecce per soldi a 26 anni, quindi nel pieno di una presunta carriera, di una possibile carriera. Almeno quelli erano umarelle, l'hanno fatto alla fine della carriera per assicurarsi una pensione, non lo so, non è che è giustificato, ma c'era una sorta di senile rincrudimento della loro tenuta etica. Ma adesso cominciano, adesso iniziano, adesso, e poi hanno tutto, veramente hanno tutto. Poi abbiamo parlato anche con Cecchi Paone del suo favoloso libro sugli aspetti anche segreti e inconfessabili, anche quello non si negano. Quindi qual è il problema? Quello che dicevi tu prima, incuriosiva, il loro legame con per esempio anche con le frange più squallide della società, è strano, il giocare a fare i malandrini anche in questa infanzia. Lo dice il presidente perenne. Monti nel suo discorso, che è più lungo, cioè, quella cosa vergognosa, sono inginocchiati, tolti le magliette di fronte a tifosia. Ha ragione il presidente, ha ragione una volta tanto, devo dirlo, è osceno, vergognoso vedere questi ragazzoni pieni di soldi, pieni di guardie del corpo, pieni piene di Porsche, di macchine lussuosissime, di fronte a dei coatti schifosi che dicono togliti la maglietta, si inginocchiano e tolgono la maglietta. Sì, è una schizofrenia fra un malinteso senso dell'onore, fra le frange belliche del tifo, e poi questa vocazione invece all'opportunismo e al losco maneggiare denaro, appunto. E pensa che gliela darebbero dalle nonne alle nipotine, eppure nonostante questo si inginocchiano. Roberto, che ne pensa? No, chiami anche qualche donna oggi all'800 24 0024, perché non voglio fare il bar dello sport. Scusi, Roberto. Sì, buongiorno. Io volevo difendere un po' me stesso, perché io sono un grande appassionato di calcio, non sono tifoso, e volevo dirle questo. Io sono un po' stupito di come si generalizzi tutto quel mondo, che sicuramente ha del marcio. Questi giocatori vanno... Beh, oltre la nazionale, cosa le devo dire? Non capisco nulla, ma... Ma infatti io credo che sia quello il problema. O lei non capisce nulla, ma lo confesso. Oppure lei lo dice per provocare... Giuro, questo veramente è la realtà. Dottor Nicoletti, le partite importanti, quelle che contano, sono partite bellissime. Quando ci sono queste combine fra alcuni giocatori, sono partite che non contano quasi. Sì, ma i giocatori sono gli stessi che giocano in tutte le partite, non viene il sospetto. Ma, mi scusi, allora andiamo, se hanno sbagliato dei medici negli ospedali, come è successo, che facevano operazioni a pagamento dove non era necessario, allora chiudiamo gli ospedali. Mi sembra i politici, chiudiamo. Sì, ma non... i presentatori sono tutti uguali. Non la prenda come se stesse offendendo sua madre. Mi scusi, stiamo parlando di un gioco. Veramente, guardi, a me non importa nulla. Le do la ragione in anticipo per farle capire quanto con leggerezza tratto questo argomento. Ma non è così come lei lo sta presentando. Ci sono dei casi, vanno puniti severamente, ma è un mondo che appassiona. Ma io vedo coinvolti giocatori che vedo fare anche spot pubblicitari, accarezzare i bambini, presentare i festival. Giuseppe Sansone, no, sennò sembra è che vero, sono io. È vero che aleggia un senso di impunità molto maggiore rispetto al passato. Questo è radicalmente vero. Secondo me interrompere i campionati sarebbe comunque aberrante, perché non è che scatterebbe chissà ma quale. Ma l'ha detto per buttare. Infatti era una buttata. Probabilmente ci non si volevo difendere io, figurati. Ma ci si riverserebbe in massa su allenazioni ancora più abbrutenti. Non è che l'importante sarebbe bello prendere coscienza individuale, magari cambiare un po' le cose in genere. Beh, all'interno del mondo del calcio sicuramente c'è una minore sarebbe lasciare libero scontro fra tifoserie senza partita. Sì, creare delle simulazioni di guerra, sì, delle basse, come i gladiatori, anche con dei leoni allora affamati da sguinzagliare. Alberto, buongiorno Alberto. Buongiorno, sono Alberto di Genova. Io volevo portare due parole, secondo me mancano un attimo a discussione, che sono l'amore e l'irrazionalità. Io sono tifoso del Genoa. Per dare un contributo, per cercare di capire, cioè l'amore e l'irrazionalità portano a giustificare qualsiasi cosa. E io da tifoso posso dire, pur non essendo un ultra, che mi sono trovato abbonato della mia squadra, pagando un abbonamento di Serie A, retrocesso qualche anno fa in Serie C per problemi di atteggiamento della dirigenza, e la domenica allo stadio in Serie C c'eravamo comunque tutti quanti. Quindi lei mi fa un parallelismo che calza. L'amore irrazionale, l'amore cieco, l'amore ci fa dire che amiamo anche la persona, che magari abbiamo prove concrete che sia un po' puttana. E questo mi sembra una giusta lettura. 800 24 0024, informazione della borsa, a tra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Apre bene il racchio, che tu hai davanti i quattro guaglioni più veloci di Ischia provincia. Chiaro, chiaro! Tu devi fare vincere Avellino Fulbas Club. Hai capito? Se no io ti strappo le budelle e te le strofine sulla faccia. E va bene, l'Avellino ha da vincere, non ride. No, guardate che... Silenzio! Guardati che noi ci curiamo, saremo sugli spalti, ti cureremo con pistole, bombe a mano, caccavelle, trick-track... Ma tutto dipenderà dal tuo fischietto. Avevi riconosciuto, è piccolo, Ma scusi, lei cosa mi rappresenta? 800 24 0024. Ho posto all'inizio di questa trasmissione l'angoscioso dilemma che perlomeno mi attanaglia da qualche giorno: come mai gli italiani continuano a conservare una così fulgida fiducia nel gioco del calcio, difendono a spada tratta i loro calciatori, le loro squadre, nonostante quello che si legge sui giornali, quello che si capisce, quello che di intrallazzo e di sporco stiamo vedendo ogni giorno. Me lo domando, ma continuano loro a difendere le loro squadre, a difendere i loro giocatori? Generalizzi, esageri, è un po' come quel signore che uno gli dice modestamente: guarda, non vorrei offenderti, ho visto la tua signora in teneri atteggiamenti con un elefante dietro un cespuglio. E dice: vabbè, ma dai, ama tanto gli animali, ma sai, poi l'ho vista lì prona davanti a un battaglione di ascari, ma cosa vuoi, faceva un pap test, erano Medici Senza Frontiere. Ecco, c'è sempre di fronte ogni evidenza la possibilità di giustificare. Giuseppe Sanson, ecco, a parte questa larga introduzione che hai fatto, ma sicuramente quello che abbiamo ascoltato prima era eccezionale, veramente, che raccontava anche nel cinema popolare quello comico, i retroscena più torbidi degli spogliatoi dei primi anni Ottanta. Quindi anche nel discorso di Monti, che lo dava il bel tempo antico, in realtà ci sarebbero degli appunti, cioè, non è però rarissimi, il torbido, dai. Sì, era però veramente l'eccezione, oggi sembra quasi che sia la regola. Certo, adesso è dilagato senza coscienza, senza nessun tipo di limite, questo sicuramente. Qui abbiamo visto Abate Antuono, Boldi, Teocoli e Ugo Conti, che con questi trench fingono di parlare in napoletano, si fingono camorristi che intimidano l'arbitro. I zingari oggi, questa oggi è internazionale, oggi è planetaria, questa fantastica eruzione degli zingari. Prima era più casareccia, era più provinciale, adesso ha contorni planetari e inconfondibili, e soprattutto si può scommettere anche sulle singole frazioni di partita, quindi uno può essere corrotto nel primo tempo e tornare a giocarsela realmente nel secondo. C'è questo, la catarsi nel secondo questo tempo. È il paradosso, che uno può anche decidere di essere corrotto e aggiustare la partita solo per una parte, nell'intervallo si confessa e poi non, perché tanto si può scommettere anche sulla parcializzazione delle partite. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dunque, se ha bisogno, io concordo sulla tristezza che lascia questa corruzione dilagante, però se ha bisogno assolutamente di credere in qualcosa, e questo è estendibile a ogni campo, faccio un esempio, vediamo i disastri in politica, gli italiani non vanno più a votare. Io sono sempre per una visione positiva delle cose, il calcio è pieno di magagne, benissimo. Le persone comuni, le persone che arrivano dopo una settimana di lavoro alla domenica e vogliono vivere un rito collettivo di festa, e mi riallaccio poi alla festa che è un tema importante, hanno bisogno di credere che almeno qualcuno di quei ragazzi che scende in campo sia onesto, abbia il cuore grande. Questa è una questione che è proprio recondita, ha a che fare con la speranza, con il sogno, con il... Mia madre, ad esempio, faccio un esempio, mia madre è in carrozzina ed è abbonata allo stadio. Lei crede fermamente che i ragazzi della squadra siano tutti puliti e spera che... Ma questi giorni cosa fa? Le ritaglia le pagine dei giornali che parlano di calcio, le spegne la televisione? Come fa a farla continuare a galleggiare in questa felice illusione? Non ho capito. No, questi giorni come fa a continuare a far credere a sua madre? Dico, le ritaglia le pagine dei giornali che parlano... No, siamo ironici in famiglia. Ah, ci scherzate. Si contempla tutto, si sa che anche lei si incazza, mi scusi il termine. No, no, è perché è il termine giusto. No, si incavola, ce l'abbiamo tutti, è ovvio, però... Allo stesso tempo, quando c'è il totale disincantamento su ogni aspetto della vita, l'uomo perde il sogno e la speranza. Io personalmente vado poco perché purtroppo lavoro spesso di domenica, però quando vado allo stadio voglio sperare, augurarmi che il mio Rimini possa essere una squadra che scende in campo in modo onesto e col cuore grande. Come sì, però guardi, io farei così, guardi, proprio lo dico dall'abisso della mia ignoranza, come ha detto il presidente Monti, per buttarlo, lo chiuderei per 3 anni. Io farei, i calciatori dovrebbero essere come dei monaci, non dovrebbero prendere soldi, lo fanno per missione, la loro missione è fare del bene alle povere mamme, ai signori che hanno bisogno di illusioni, di speranza. Bellissimo, hanno la fama, il pelo glielo lasciamo lo stesso, quello non c'è problema, però gratis, senza soldi. Almeno siamo sicuri che sono persone votate all'idea di fare felici le persone. Il fatto che prendano tutti questi soldi, che maneggino tutti questi soldi, e nonostante questo prendano in giro le persone che credono in loro, a me lievemente non indigna, io non mi indigno mai di niente, io osservo, racconto, cerco di mettere a contrasto le informazioni che ho per far riflettere, non mi indigno mai, però mi sembra paradossale. Massimiliano. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. E a mio modesto parere il problema del tifoso è che dopo aver litigato con tutti gli amici del bar, dopo aver speso domeniche, notti, sabati a seguire la propria partita, la propria trasmissione del cuore, leggere giornali, aver speso non so quanti soldi, e poi si dovrebbe rendere conto che tutto questo tempo buttato, tutto questo tempo speso sarebbe tempo da buttare nello sciacquone, e quindi c'è come un rifiuto di prendere atto di aver buttato. Ti ho regalato gli anni migliori della mia vita, quante volte ci siamo sentiti dire o l'abbiamo detto. Esatto, magari aver sacrificato la moglie piuttosto che gli amici per seguire la propria sarà stato a vantaggio di qualcun altro, l'umanità in generale ne ha comunque avuto vantaggi, penso. Sì, e poi adesso dovrebbe dire, tutto sommato forse fino adesso solo vivevo in un sogno incantato, mi hanno preso per i fondelli. Non ci si vuole svegliare dall'illusione. Giuseppe Sanzonna, che ne pensi? Sul fatto di ridimensionare la sfera economica che ruota attorno al calcio sono d'accordissimo, e soprattutto di evitare questo espandimento su tutta la settimana del calcio, cioè se le partite si giocano di giorni diversi, se si ricontenesse tutto in un unico orario. Tu, perché sei più giovane di me, quando accadde questa cosa tutti lo dicevano, i nostalgici, come la domenica era il rituale domenicale, era la liturgia laica dell'italiano, andava a messa e il pomeriggio andava alla partita o con la radiolina a ascoltare le partite. Ci fu un momento che gli umarelli italiani impazzirono. Però poi hanno accettato tutto, proprio il popolo del calcio ha accettato tutto, ha ingoiato tutto quanto. Allora ridimensionare anche temporalmente, lasciare il tempo dell'attesa durante la settimana. Ma io immagino, essendo potente, poderoso il business che c'è dietro, per questo è stata spalmata, per fare serate televisive, la TV satellitare, ci sono state tante ragioni. È un po' difficile tornare indietro in questo momento. 2 anni fa, per salvare la squadra dalla retrocessione, lo sa che cosa ho fatto? Ho venduto l'appartamento di mia moglie. In 2 giorni mi sono fatto 3.000 chilometri in macchina per convincere un amico ad aiutarci. Questo non è niente. L'anno successivo stessa cosa, sempre nella merda. 150 milioni di cambiali firmate in proprio per permettere al nostro allenatore, quello zero che è corti, di dichiarare in televisione che aveva salvato lui la squadra dalla Serie B. Quest'estate ho costretto mia figlia a farsi corteggiare, lasciamo stare i dettagli, dal grande calciatore Boschi. E sa perché? Perché se no se ne andava di qui, se ne andava la Fiorentina che lo aveva richiesto. E così le do a lei la possibilità di avere ancora un giocatore che sa come ha fatto un gol. Io non so quando è nata mia figlia, ma so esattamente che il 23 dicembre 1976 abbiamo fatto 2-2 con l'Udinese e che la domenica successiva abbiamo perso 3-0 con la Roma. E allora l'altra domenica lo sa cosa ho fatto. Giuseppe Sanzonna, questo è un arcaismo di altri tempi. Questo è l'ultimo minuto di Pupi Avati, che presenta un Tognazzi allenatore. Qui i suoi mezzucci, le sue losche trame in realtà servono solo alla passione per la sua squadra, a conservare anche un posto di lavoro, quindi c'è una dimensione più umana che non largheggia verso orizzonti mafiosi, delinquenziali, di arricchimento. C'è proprio qualcosa di concreto che va portato avanti anche con mezzi loschi e squallidi, senza che per questo... Sì, beh, è aumentato il volume di affari intorno al calcio, quindi sono aumentati gli appetiti, sono aumentate le parti in causa anche dal punto di vista della non legalità, questo è chiaro. Parlavamo di tempi in cui erano le epoche del mulino bianco dei calciatori. Oggi è un po' cambiata la vicenda. Walter, buongiorno. Buongiorno, grazie. Ma io non sono un grande tifoso, sono di Torino, sono anche abbastanza vecchio, un vecchio tifoso del Torino, va bene. Ma io credo una cosa, come i politici, come i calciatori che comunque hanno migliaia e migliaia di euro a disposizione tutti i mesi, poi ancora di più, quando i calciatori sono idolatrati, no? E hanno tutto, come diceva lei prima, hanno le donne, hanno le... Non lo dica molto, che già mi ha scritto un ascoltatore su Facebook, dice gli ascoltatori potrebbero pensare che sei invidioso, loro per procurarsi intime d'azione non devono né ubriacare le donne, io non ho mai ubriacato donne, no. Con abili mirabolanti usi del linguaggio, con il linguaggio, né tantomeno inventarsi improbabili pratiche come il sollevamento. Dice, tu fatichi tanto, sudi tantissimo con la poca robetta che sei trovato nelle mani durante la vita, loro ce l'hanno a camionate, quindi li invidi. Ma non è così. Ma sì, forse sì, l'invidio. Molto semplice, no? E non vado a strapparmi i capelli perché segna qualcuno. Credo che alla fine anche loro sono ricattabili, come tutti quelli che hanno un sacco di vizi e fanno tutto di più nella loro vita privata. Alla fine, come è successo con Corona, che ha fotografato Ekland, ma comunque sono ricattabili. Alla fine non credo che loro abbiano una cattiva coscienza. Quando poi si trovano davanti ai fatti... Dice, poverini, sono costretti, non possono tirarsi indietro. Sono costretti, magari gli piangerà anche il cuore a segnare contro la loro partita, però per salvare la faccia, per la carriera, per tutto, sono costretti. Lei pensa che un meccanismo ormai così talmente corrotto, proprio ne parla come fosse un'organizzazione mafiosa in cui... Guai chi non dà una coltellata insieme ai suoi compari, perché sarebbe il primo a prendere coltellate. Giuseppe, che ne pensi? Comunque c'è da ricordare che nel precedente scandalo del 2006 erano coinvolti dirigenti, arbitri, adesso sono protagonisti calciatori. Soprattutto era coinvolto la Morena Itterica, Lucianone Moggi. Il pesce comincia a puzzare dalla testa, poi scende la corruzione, logicamente. Però tornando alla memoria corta degli italiani, Moggi fa un programma su Gol TV che è meraviglioso, questo è sì, molto cinematografico, cioè, riunisce nello stesso studio fisico, c'è Pippo Franco, il Revenant, lo zombie di Pippo Franco che fa da presentatore, c'è Moggi stesso, si chiama Ieri, Moggi e Domani, anche il titolo molto originale, affascinante, c'è un pianista da night, c'è l'arbitro De Santis. Siamo in un paese in cui assassini vanno a piede libero, ribellitati, mandanti di omicidi fanno gli editorialisti, ti meravigli se vedi persone coinvolte in calcio scommesse che sono protagonisti a televisione, mi sembra banalmente normale in questa normalità che stiamo vivendo. Melog, la realtà condivisa. Io vorrei tutto bello, tutto carino, tutto giusto. Io sono contro quello che è sbagliato e ce ne sono cose tante sbagliate. Oggi calcio è più business e merchandise che sport. E come io sono rimasto attaccato sulle cose mie, io considero sempre calcio un gioco, uno sport, un mezzo che dà possibilità alla gente di divertirsi e sono rimasto sempre su questa idea. E quindi forse questa sublime massima di saggezza, mirabilmente ripresa con un attento occhio cinematografico da Giuseppe Sansonna e la voce di Zdeněk Zeman, tratta da Il ritorno di Zeman, cofanetto con due DVD più libro sulla carriera sportiva del prossimo allenatore della Roma, confezionato da Giuseppe Sansonna per Minimum Fax. No, qui appunto lui raccontava la sua visione del calcio, qui era ancora fuori un po' da tutto. Però la cosa, ma se che... alla Roma tu cosa fai? Il suo portavoce? No, io sono solo contento per il suo lui. Ma figurati, hai solo, fatto un film su di lui. Puro affetto, la cosa interessante che lui ha tirato fuori è il discorso che il business ha regole diverse da non meritocratiche come lo sport. Però una frase con cui ha chiuso un'intervista meravigliosa, cui diceva: io continuerò ad allenare finché dalla mia panchina sul campo vedrò correre persone e non soldi. Quindi questa notazione, questa dà esattamente il polso di quello che stiamo vivendo, insomma, un'acuta riflessione sulla perdita della dimensione del gioco e dell'imprevedibilità, appunto sacra, come si diceva all'inizio trasmissione, di quello che dei templi del calcio avveniva. Adesso sapere che è già tutto previsto, che ci sono possibilità di combine, e poi soprattutto la schizofrenia, prima quando ha chiamato un ascoltatore del Genoa, adesso bisogna vedere un po' come procederà l'inchiesta per cui è coinvolto un giocatore del Genoa, che però abbiamo visto accoratamente rinunciare a togliersi la maglietta davanti ai tifosi che lo incalzavano. Quindi c'è una schizofrenia fra onore estremo e fra combine potenziale, insomma, quindi tutto è da verificare, da capire. Finalmente una donna, Valeria, buongiorno. Ciao Nicoletti, allora che dirti, dinanzi a queste situazioni vergognose, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul calcio, il primo giornale quotidiano che si legge è la Gazzetta dello Sport. Quando chiedo in edicola il Corriere mi danno sempre il Corriere dello Sport, non so perché. Infatti anche io non lo prendo mai. Il Corriere mi danno in mano quel giornale che non ho mai aperto in vita mia, senza togliere nulla a chi lo legge, naturalmente. Assolutamente, però questo fa capire il polso della situazione. L'italiano... Ma lei è sdegnata da questo, perché? Sento lo sdegno nelle sue parole. Dove c'è l'agonismo? Dove c'è lo sport? I nostri figli che cosa guardano? Cui si dovrebbe effettivamente mettere un freno a questa situazione. Ma lei è convinta che frenare, censurare, chiudere? No, censurare no, però questo giro di soldi, un giocatore pagato 100 milioni di euro, quando noi andiamo a lavorare per 30 euro al giorno senza neanche essere assunti. Però sono belli. Ma che cosa me ne frega che sono belli? Io sono pure una bella ragazza, ma io non ci vado dietro. Lei non desidera un calciatore, non l'ha mai desiderato? No, io non desidero, no, io voglio un uomo brutto e intelligente. Ma chi sono questi ragazzi che non sanno neanche le facciamo un monumento io e Sansonna. Tra l'altro non sono manco brutta, per cui insomma. Quindi lei dice sarebbe disposta all'intimidazione purché uno sia brutto e intelligente. intelligente, bello dentro. Ma bello dentro, no, aspetta, ho improvvisamente un attacco politico. Con le veline, con il Grande Fratello, ma che sono tutta questa robaccia che fanno in televisione? Vedi, però, scusi, lei sembra mossa dall'invidia e dalla gelosia per le appariscenti ragazze che concedono l'intimidazione ai calciatori. No, assolutamente, non è un discorso di invidia, è un discorso, secondo me, che bisognerebbe mettere un freno, anche perché effettivamente queste non sono la situazione. Ma come si fa a mettere il freno? Scusi, li castriamo, cosa gli vuol fare? No, sicuramente no, però questa circolazione purtroppo dipende anche dalle squadre, perché con tutti questi sponsor, questi soldi che girano, bisognerebbe dare un valore praticamente diverso ai soldi e valorizzare anche gli sport minori. Ma lei proporrebbe una rieducazione per le fantastiche ragazze che in realtà sono colpite e rapite dal mito del calciatore? Non è un discorso di ragazze. Se lei va nelle province, colpite, anche il più scalcinato dei calciatori di una squadra di Serie Z, comunque sia, se va nel corso del paese della Puglia dove abita Sansonna, vede le ragazze che si smutandano. Le cose a posto anche a livello di informazione, tutte queste trasmissioni che poi alla fine, trasmissione prima, trasmissione dopo, che alla fine non capiscono niente, perché come abbiamo visto le partite sono tutte combinate. Di cosa parlano? Di aria fritta questi qua. Vabbè, Valeria, io capisco il suo risentimento, però le consiglio di viverla più leggiadramente, perché sento veramente un profondo magone nella sua voce e non vorrei che fosse proprio un motivo di irraggiungibilità di questi modelli sublimi di nuovi dei. La saluto, Massimo. Sì, buongiorno. Niente, io volevo sostenere come sono stati emarginati certa gente tipo Teman, dopo, per dire un altro, Dino Baggio ad esempio, che praticamente ha finito la carriera da quando ha fatto quel gesto col Parma in una partita. E dopo, riguardo a Monti, semplicemente dovrebbe licenziare tutta la dirigenza del calcio, perché mica il capo ufficio delle squadre d'Italia. Lo so, però sospendere il calcio è impossibile, perché c'è anche un giro miliardario, eccetera. C'è la magistratura per questo, ci sono i processi. Vabbè, ma come istituzione, diciamo, non si può fare una purga di tutti i calciatori. No, lo stanno, cioè, non voglio dire punire, ma perlomeno sono stati all'altezza di non accorgersi queste cose qua. Sono processi lunghi, lei sai di calciopoli quanti anni sono che se ne parla? Guardi, nel mio microscopico mondo di lavoro, anch'io in due occasioni mi sono scontrato, cioè mi ero messo contro i miei interessi per andare, diciamo. Vabbè, questo comunque col calcio non c'entra un benamato pifro, la ringrazio comunque. Giuseppe Sansonna, grazie, hai avuto poco spazio sta puntata, ne avrai più nella prossima, abbiamo fatto delle lussuose marchette al tuo DVD di Zeman. Ci sentiamo domani.